La debolezza di carattere di Gaetano assomava precisa come un orologio. Appena in ditta c'era il minimo fastidio, il minimo mare di prua. Capita che qualche cosa andava momentaneamente storta, Gaetano di Brescia abbandonava il suo scagno dove Totò l'aveva messo a fare conti, che almeno in questo era bravo, e si precipitava a testa bassa a incuponarsi dentro la sua camera di Palazzo Barbabianca. Da queste scappate a casa più o meno frequenti, donna Matilde, moglie di Don Totò e madre di Nenè Gaetano, aveva imparato a seguire l'andamento alquanto avventuroso della ditta di suo marito, perché a lei niente veniva direttamente detto, essendo, come era saputo, le donne buone solo per il letto e la cucina. Ed era per questo che ora donna Matilde stava dietro la porta della camera di Gaetano, che s'era serrato dentro a chiave per saperne qualcosa di più. «Apri, Stefanuzzo, figlio mio! No, devo finire prima 15 poste del rosario! Ma che è successo? Niente, non mi fate perdere tempo!» E continuava a pregare Gaetanuzzo, stringendo nella destra i grani del rosario, le labbra terate, e aveva dato fuoco ai lumini sotto tutte le santine e tremava senza potersi fermare. «Proteggeteci voi, fateci un miracolo solo, scampateci dalla rovina!» «Eccellenza, che volete fare? Scendete giù a mangiare? Don Angelino!» «Non ho appetito!» «E allora che faccio? Scendo io?» «No! Se vede il fumo! Ancora no!» «E perciò tutto qua non decatamini!» «Guardate che da ponente stanno salendo nuvole d'acqua!» «Ma se c'è un sole che si crepa!» «Magari ora sì, però fra un pezzo lo sentirete che il sole se n'è andato!» «Vuol dire che se si mette a piovere mi tiene l'ombrello aperto, ma io da qui non mi arremeno!»